Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2017-2018 su Radio Big World. Avvio di campionato con le tre grandi protagoniste tanto attese, un po' deludenti. Sto parlando di Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors e Oklahoma City Thunder. Tre squadre viste come favoritissime o comunque killer potenziali della regular season, che hanno inanellato numerose sconfitte in questo avvio, molte delle quali inaspettate. Cleveland delle tre è quella che sta impressionando maggiormente in negativo. Soprattutto lascia basiti l'approccio difensivo talvolta svogliato e talvolta inesistente. L'infortunio di Derrick Rose era poca roba, tant'è che l'ex Chicago Finest è già rientrato, anche se lo ha fatto in occasione della clamorosa sconfitta casalinga contro i derelitti New York Knicks. L'apporto al momento ricevuto da Dwayne Wade è, oltretutto, a mio avviso insufficiente, anche se calcoliamo le difficoltà di un giocatore che non è ovviamente più giovanissimo. Tutte le speranze sono quindi da riporsi in una eventuale quadratura del cerchio futura, da ricercarsi in una chimica di squadra più definita, magari grazie anche al rientro di Isaiah Thomas dall'infortunio, che comunque avverrà tra tanto tempo. Una delle ipotesi comunque da non scartare è che Cleveland non stia assolutamente forzando la mano, consapevole che la regular season per un organico come il loro ad est è pura formalità, una sensazione che emerge realmente guardando anche giocare i Golden State Warriors di questo avvio. Per quanto riguarda invece Oklahoma City, la sensazione è che davvero si stiano cercando le soluzioni migliori per far quadrare un'amalgama che, lo ripeto, dal mio punto di vista è destinata davvero a stupire, perché Carmelo Anthony, Paul George e Russell Westbrook sembrano completarsi piuttosto bene l'uno con l'altro. È solo questione di saper dosare tutto il resto e farlo funzionare nei momenti decisivi. Steven Adams nel frattempo attorno a quei 3 viaggia quasi a 15 punti e 8 rimbalzi per allacciata di scarpe, beneficiando dei 12 assist per gara che al momento sta smazzando il suo numero 0. Contrariamente a quanto previsto dopo la funesta opening night, invece ad est impressionano i Boston Celtics, con un avvio stellare che al momento in cui registriamo vanta 5 vittorie consecutive dopo le 2 sconfitte nelle prime 2 gare. L'infortunio di Gordon Hayward sembrava aver gettato un'ombra spessissima fin da subito sulla loro stagione, ed invece la squadra guidata da Kyrie Irving sta stupendo un po' tutta la Lega per più di una ragione. Intanto, parlando proprio dell'ex Cleveland Cavaliers, il suo ruolo di leader trascinatore è palese e visibilmente funzionale. Oltre ad attestarsi attorno a quasi 22 punti e 6 assist per partita, gestisce e coordina tutti i possessi decisivi, soprattutto nei finali in volata. Accanto a lui, avvio di stagione positivo per il rookie Jason Tatum, che con quasi 15 punti di media tra i top 5 di una classe di esordienti che si sta rivelando piuttosto interessante, e all'interno della quale Ben Simmons dei 76ers è secondo me saldamente al numero 1 di una ipotetica classifica di rendimento. Altro giocatore sta impressionando un po' è Jaylen Brown, che dopo una prima stagione nella Lega da appena 6 punti di media lo scorso anno è esploso in questo avvio di stagione toccando una media attorno ai 16 punti per gara. Soprattutto il ragazzo corre e è un piacere, è l'anima offensiva del contropiede, ma come Tatum e tutto il resto del roster difende come un mastino. È l'aggressività difensiva di una Boston che nelle vittorie ha raggiunto il successo proprio nella metà campo difensiva ad entusiasmare i tifosi in questo avvio. Brevemente una piccola analisi sulle altre sorprese e delusioni ad est. Orlando Magic e Detroit Pistons si troverebbero al momento, ricordo stiamo registrando ed è martedì pomeriggio, appaiate con Boston in quello che sarebbe il vertice della Eastern Conference, guidate rispettivamente i primi dall'esplosione di un Aaron Gordon ad ora da 21 punti di media per gara e i secondi dall'accoppiata Avery Bradley e Tobias Harris. Queste due squadre stanno inevitabilmente impressionando in positivo all'avvio, così come anche il rendimento momentaneo di New York Knicks e Brooklyn Nets, che è a mio avviso sorprendente. Si tratta di una fase di assestamento forse più lunga del previsto ad est e più in generale nella Lega, e probabilmente una rivoluzione negli equilibri è prossima e prevedibile, però al momento c'è da prendere coscienza di questa situazione. Per i Philadelphia 76ers avvio bipolare, con la vittoria di martedì notte a Houston con un Embiid ed un Simmons sugli scudi. Preoccupano le condizioni del rookie Markelle Fultz, che è stato finalmente messo fuori squadra per il brutto problema alla spalla che ne stava limitando prestazioni e meccanica di tiro. Occhio perché, secondo la tradizione Sixers degli ultimi anni, la prima scelta del draft era destinata neanche a scendere in campo nella sua prima stagione. Con Fultz, Philadelphia ha provato a forzare questo destino, evidentemente senza successo a lungo termine, ma facendo comunque esordire il ragazzo, che però si trova adesso ai box con l'appuntamento di essere rivalutato tra qualche decina di giorni. ad ovest. Due squadre al solito non troppo calcolate in avvio come San Antonio e Los Angeles Clippers hanno iniziato alla grande, anche se dopo un avvio da 4 vinte e 0 perse, il clan di Greg Popovich si è visto ridimensionato da 3 sconfitte consecutive in trasferta ad est, rispettivamente contro Orlando Magic, Indiana Pacers e Boston Celtics, comunque con un Kawhi Leonard che ancora non ha esordito in stagione. Il campo lo ha invece appena toccato nella opening night Chris Paul di Houston, prima di fermarsi a tempo indeterminato, ma i suoi compagni stanno comunque proseguendo a mettere insieme buoni risultati in questo avvio. A parte il solito James Harden, sono due i giocatori che si stanno mettendo in luce in modo obiettivamente positivo. Si tratta di un Eric Gordon da praticamente 25 punti per gara e di un Clint Capela che produce 13 punti, 11 rimbalzi e una stoppata e mezzo per allacciata di scarpe. Soprattutto schiaccia nel canestro tutto quello che gli viene lanciato in aria, meglio se al volo. Chissà se i Rockets continueranno a mostrare invidiabili equilibri simili e come si inserirà in quel caso l'ex playmaker dei Clippers nel gioco di D'Antoni. Staremo a vedere aspettando con curiosità il rientro di CP3. Chi delude invece ad ovest, a parte Oklahoma City e i Golden State Warriors già detti, che in realtà stanno raccogliendo meno di quello che ci si aspettava, occhio però perché i campioni sono comunque con 5 vinte e 3 perse al momento in cui sto registrando, quindi a parte qualche sconfitta imprevedibile non vanno esattamente malaccio, sorprendono anche i Memphis Grizzlies e fanno ben sperare i Minnesota Timberwolves, che sembrano aver trovato equilibri stabili prima di altre squadre che hanno cambiato molto. Con i Thunders ad esempio hanno già vinto 2 sfide su 2. Kings, Mavericks e Suns sono destinati a recitare il ruolo di sparring partners della conference, con quest'ultimi che al momento sono equiparabili ai Lakers di un Lonzo Ball che sta iniziando a soffrire notevolmente le difese NBA, soprattutto con percentuali di tiro discutibili. Il ragazzo sta dimostrando comunque una visione di gioco piuttosto notevole e sicuramente le percentuali si aggiusteranno con il placarsi del clamore mediatico che ha suscitato principalmente il suo impresentabile padre. Intanto i Lakers si godono un Julius Randle che sembrava aver avviato con il piede storto ma che sta decisamente esplodendo, ed un Brandon Ingram da circa 14 punti per gara, un po' di scontino e forse ancora acerbo, ma che ha una stagione davanti per dimostrare che il suo potenziale può essere trasformato in indiscutibile valore. A parte proclami e potenziali sparate, non credo che i Lakers riusciranno a raggiungere le 40 vittorie quest'anno. Tuttavia è importante che la loro stagione si sviluppi chiarendo alla dirigenza ed al mondo quali giocatori del roster sono destinati a formare la squadra di domani e quali potrebbero essere sacrificabili in un'estate di mercato che dovrà vederli protagonisti a livello di grandi nomi. Focalizziamoci adesso su 4 giocatori che hanno avviato la stagione 2017-2018 evidentemente con il piede giusto. Tutti parlano giustamente di Giannis Antetokounmpo quando guardano a Milwaukee, ma i Bucks rappresentano una realtà interessante anche per una serie di giocatori spesso destinati a passare sotto traccia, sui quali i riflettori raramente si posano. Uno di loro è Malcolm Brogdon, passato forse alla storia come il rookie dell'anno meno popolare di sempre, probabilmente. Il ragazzo ha vinto infatti questo award personale lo scorso anno, complice una classe di matricole piuttosto deludente nelle prestazioni e soprattutto il non raggiungimento del limite minimo di partite da giocare per essere nominato come esordiente della stagione per Joel Embiid di Philadelphia. In realtà comunque in meno di 30 minuti di impiego Brogdon aveva prodotto 10 punti e 4 assist per allacciata di scarpe, dimostrando una discreta maturità nell'organizzazione del gioco. Quest'anno, con qualche esperienza in più sulle spalle, il ragazzo sembra aver davvero salito un metaforico scalino verso l'ascesa per la maturità di giocatore. Si attesta al momento attorno ai 15 punti e 4 assist per gara in quasi 35 minuti di impiego e rappresenta il regista ideale sul quale basare una squadra giovane e di ipotetiche belle speranze come Win Milwaukee, già sorprendente lo scorso anno ai playoffs, decisa a far meglio nella stagione appena iniziata, considerando l'esperienza maturata ed il livello a ribasso dei roster della Eastern Conference. L'osservato speciale, lo sappiamo, resta sempre il greco, ma occhio anche al playmakerino proveniente dall'Università di Virginia, tra l'altro scelto come 36esima scelta assoluta di quel draft per il quale si è comunque iscritto negli annali come il miglior rappresentante a stagione conclusa. Tornando a parlare per un attimo dei Philadelphia 76ers, che pur non vincendo incuriosiscono e probabilmente divertono, occhio anche all'avvio di stagione di Robert Covington. Se non conoscete la sua storia personale, dovete sapere che il ragazzo non fu selezionato nel draft NBA 2013 appena uscito dalla Tennessee State University, giocando con gli Houston Rockets nella Summer League dell'estate a seguire. Il suo debutto in NBA avvenne nel gennaio seguente e durò appena 54 secondi. per i Rockets, giocherà appena 7 partite con una media totale inferiore ai 3 minuti per gara, mettendosi però in evidenza nella D-League, firmando con i Rio Grande Valley Vipers. L'anno seguente, dopo essere stato selezionato sempre in D-League dai Grand Rapids Drive, viene chiamato dai derelitti Philadelphia 76ers il 15 novembre del 2014. Esordisce così in NBA con la maglia di Philly contro gli Spurs, chiudendo la sua partita con 6 punti. Nei 3 anni passati a Philadelphia si è sempre mantenuto sulla doppia cifra in maniera appunto di punti segnati, dimostrando un'ottima predisposizione nel tiro da dietro l'arco dei 3 punti, che ha sempre opzionato piuttosto spesso. In questa avvio di stagione sembra essersi notevolmente migliorato in materia, quantomeno a livello di percentuali, mostrando una crescita esponenziale sia delle sue statistiche personali che a livello di importanza nello scacchiere della squadra. Insomma, mentre aspettiamo che il processo dei Sixers decolli, oltre agli osservati speciali Embiid e Simmons, occhi puntati anche su Robert Covington, che al momento si attesta attorno ai 13 punti, 5 rimbalzi e il 46% da 3 punti per partita. Se pensiamo invece a Dwight Howard, ai più vecchi di voi torneranno in mente le sue schiacciate, i suoi sorrisoni di qualche edizione passata dell'All-Star Saturday, con addosso il mantello di Superman. In realtà, complice una schiena dolorante ed un'apparente scarsa attitudine al lavoro, o almeno così si vocifera spesso negli ambienti competenti, l'ex Superman non ha trovato pace dopo aver lasciato Orlando ed essersi lasciato dietro le spalle gli anni migliori. L'annata ai Lakers alla corte di Kobe Bryant è stata l'avvio di una parabola discendente della propria carriera, anche a livello di importanza, e colui che sembrava poter diventare uno dei migliori centri di sempre è decaduto nel dimenticatoio mentre inanellava stagioni appena sufficienti a Houston e Atlanta. Chissà quindi in quanti avranno scosso la testa dopo averlo visto approdare in quel di Charlotte, presumibilmente voluto dal presidente degli Hornets, sua altezza Michael Jordan, che non si è esattamente costruito nomea di grande dirigente dopo aver appeso le scarpette al chiodo definitivamente. Io, se posso essere onesto, la testa l'ho scossa più di una volta. Il mio parere su Howard, per citare proprio Kobe Bryant, è troppo soft. In realtà il centrone ha avviato la stagione in modo piuttosto concreto proprio in quel di Charlotte, portandosi a casa una quantità di rimbalzi destinata a far sensazione almeno in questo avvio. Attenzione, perché anche lo scorso anno però ad Atlanta le sue cifre iniziali erano tutto sommato positive, e comunque stiamo parlando di un giocatore che, seppur a mezzo servizio, volente o nolente che sia, va in doppia cifra in materia di punti e rimbalzi di media abitualmente da stagioni, come se fosse il minimo sindacale. Al momento però le sue statistiche si attestano attorno ai 13 punti, 15 rimbalzi per quasi 2 stoppate per gara ed il 55% dal campo. Assolutamente non male, considerando che le chiavi della squadra sono in mano ad un certo Kemba Walker, che ha la stoffa del trascinatore e per il quale una macchina da rimbalzi come l'uomo dalle spalle più larghe della Lega probabilmente in questo momento può essere più che utile. Chiudiamo parlando di Victor Oladipo, e non solo perché ha segnato la tripla incredibile che ha condannato alla seconda sconfitta consecutiva i San Antonio Spurs nella sfida di domenica notte. Statisticamente il ragazzo viaggia a 10 punti di media in più rispetto alla scorsa stagione, passata a provare a far da spalla a Russell Westbrook negli Oklahoma City Thunders. Ad Indiana si tratta della prima opzione offensiva, il minutaggio è salito e con lui anche la precisione al tiro e indubbiamente la quantità di tiri a disposizione stessi. Quella che è destinata a stupire maggiormente però è la ritrovata o sbocciata capacità di leadership dell'ex Orlando Magic ed OKC, la capacità di prendersi scelte meno azzardate di alcune infelici intuizioni ed esecuzioni viste lo scorso anno, le responsabilità che il giocatore tende a caricarsi sulle spalle senza problemi. Certo, ancora è molto presto per tirare le somme, e comunque gli Indiana Pacers sono un cantiere apertissimo all'interno del quale non ci sono valori di spicco tanto determinanti che possono offuscare il talento di Oladipo, trasformandolo progressivamente in seconda o terza opzione offensiva di squadra. Tuttavia, quella che attende il giocatore è presumibilmente una stagione da leader, in una squadra che, seppur non abbia playoffs come obiettivo dichiarato, deve gettare le basi per ricostruire il post Paul George. Lui, per ora, si attesta attorno ai 25 punti e quasi 2 recuperi con 3 assist e quasi 5 rimbalzi per gara. Assolutamente non male. Benissimo, anche questa puntata di NBA Week giunge al termine. Colgo l'occasione per rinnovarvi i nostri appuntamenti, ricordandovi di seguire sempre la nostra pagina Facebook che si chiama appunto NBA Week per aggiornamenti e commenti dell'ultimo minuto. Invece, come al solito, potete ascoltarci tutti i venerdì sera alle 21 sul flusso streaming di Radio Big World, tutti i sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio alle 18 in streaming su Radio Valdarno. Grazie per l'ascolto, a risentirci alla settimana prossima.